Il nome preciso di questo istituto era Istituto di Educazione Sublime per i Preti Secolari dell'Impero a Vienna. C'era nell'ambito degli studi un altro aggettivo, c'era lo stesso aggettivo adoperato per un'altra disciplina ed era esegesi sublime, e ora qui si tratta di educazione sublime. Allora, esegesi riferita ad un aspetto particolare, però è significativo che per quella disciplina che si riteneva dovesse essere il punto base e quindi il fondamento di tutto il ragionare teologico, si usi poi questo aggettivo per un altro schema di lavoro ed è educazione. Educazione voleva dire, negli statuti di questo istituto, voleva dire formazione intellettuale e formazione morale. Dicevano anche formazione della mente e formazione del cuore. Quindi non c'è tricotomia qui, c'è dicotomia, e questa mancanza dell'altro momento corporeo avrà degli effetti micidiali. Cioè, erano pochi tra questi studenti, specialmente i nostri veneti e lombardi, che sapevano resistere a tutta la struttura, a tutte le esigenze di un'educazione perfetta, che è una sublime vertice eccezionale del cuore e anche della mente. Il corpo doveva essere in questo davanti a queste due mette così alte, doveva essere in un certo momento sacrificato, e difatti era sacrificato, tornavano a casa quasi tutti ammalati. E si legge, cioè, qui c'è un bel resoconto di uno uomo veramente eccezionale, Valbusa è un uomo veramente eccezionale, biblista. A Padova, ha detto, nel Veneto ha piantato insomma gli studi biblici, l'iniziatore anche ha scritto attesti, eccetera. E dice, è arrivato a un livello altissimo, tutti massimo con lode, tutti gli esami scolastici, perché c'erano quattro tipi, no, di prove. C'erano i previa, più duri degli esami. Dopo i previa c'erano gli esami, previa era un colloquio con un direttore di studio, previa. Se uno non superava il previa, un altro giorno. Poi, secondo previo, davanti alla commissione, un collegio di direttori, duro, ancora più duro del primo, tutti dovevano fare obiezioni. Poi, esami scolastici, che voleva dire, sostanzialmente, noi siamo stati nel seminario anche Don Molinari, anche nel nostro, cioè le famosi 40 tesi di dogmatica, le 30 tesi di teologia morale, le 100 nostre tesi, questi erano scolastici. Poi, finalmente, c'erano le ultime, i tentamina rigorosa. Qui, in pratica, lo studente doveva dar prova di capacità sintetica, per esempio, in campo biblico, saper leggere nella lingua siriaca, eccetera, caldaica, aramaica, ebraica, il testo, saperlo interpretare, saperlo tradurre. Ecco, questa era prova scritta, prova orale, se non passava lo scritto non faceva neanche l'orale, bocciato una volta non si tornava più indietro, eccetera. Con successo, massimo successo, bene, questo Valbusa ha tutto con massimo successo, però dice qui, dice questo è interessante, dice prossus singularis exhibent documenta, su successo, insomma, eo cerciora quo longiore tempore corporis infirmitate, più ammalato che sano, nonostante questo. E poi io qui ho tutti questi testimoni che ho trovato lassù in questo archivio che Maitini mi ha indicato. No? Di che anno? 1822, il 23 giugno. Era 23 giugno 1822 Vienna, firmato dallo stesso Frint. Frint è fondato, firmato dal Frint. Dunque è chiamato così Istituto di Educazione Sublime soltanto per i preti secolari dell'impero, con sede a Vienna. Ma viene chiamato anche Augustinianeum perché fu scelta come sede il convento di Sant'Agostino, vicino a Lofburg, oppure viene chiamato dal suo ideatore e anche animatore Frintaneum, da Jacob Frint. Così leggiamo forse alcune pagine, cosa mai se sono troppo lunghe, allora mi dite sospendi e così sospendiamo. Francesco I, ecco, volevo dire questo, insomma, nella testa, qui non ho citato tutti i testi, ma nel cervello di Francesco I voleva essere questo il punto di arrivo, il clou di tutta la riforma. Cioè, fra tutte le strutture, la migliore, quello che meglio di ogni altro raffigurava, rappresentava. Sì. Francesco I, il 29 marzo 1816, notificava al cancelliere Conte Lazzanski il disegno di creare l'Istituto di Educazione Sublime per i preti secolari dell'impero a Vienna. A questo fine stanziava 5.000 fiorini del fondo di religione per i lavori più urgenti di sistemazione del nuovo istituto presso il convento di Sant'Agostino, chiamato perciò anche Agostinianeum. L'abate Jacopo Frint, parroco di Hofburg, in qualità di superiore, con la celebrazione della messa, il canto del Veni Creator, il 29 ottobre 1816, solenne tutta la corte, eccetera, ne iniziava l'attività che continuò fino al 1918. L'ideatore fu Jacob Frint, la cui vita può aiutarci a capire la novità dell'istituto che dal suo nome venne chiamato Frintaneum. Di origine boema, era nato a Kamitz il 4 dicembre 1766, da una famiglia di artigiani religiosissima e numerosa. Jacob avrebbe dovuto seguire il mestiere del padre, tessitore di lana, se per la sua voce melodiosa non fosse stato chiamato nell'80 a far parte della scuola cantorum, prima nel suo paese, Kamitz, e poi nel duomo di Klagenfurt, dove poté compiere gli studi ginnasiali. Dall'86-88 a Laibach completò i corsi di filosofia necessari per l'università. Durante gli studi filosofici, Frint si sentì attratto al sacerdozio, ma si era nel periodo del prorompente fervore riformistico di Giuseppe II. Frint si rifiutò di entrare in uno dei seminari generali imperiali a Vienna, Graz e Innsbruck per lo spirito anti-ecclesiastico allora dominante in quegli istituti. Questa è la motivazione da lui dedotta. Si iscrisse ai corsi di giurisprudenza all'Università di Vienna, che frequentò dall'88 al 90 senza tuttavia conseguire il titolo accademico. Durante gli studi universitari conobbe il predicatore del Duomo di Santo Stefano, Michele Wagner, noto come fondatore dell'amicizia cristiana a Vienna, assieme a Diesbach. Quel circolo viennese, cui aderì anche Hofbauer, si oppose alle correnti enciclopediste e giuseppiniste del fine Settecento, promuovendo una riforma interiore delle coscienze. È difficile poter dire in quale misura Frint fu attratto dall'ideale di un Diesbach o di Hofbauer. Resta il fatto che egli decise di entrare in seminario di Santo Stefano a Vienna quando Leopoldo II restituì parte della giurisdizione su questi istituti. Frint, assieme a Vincenzo Darnaut, futuro cappellano di corte e professore di storia della Chiesa, Vincenzo Milde, che sarà arcivescovo di Vienna e autore anche di testi di pedagogia, fu tra i primi alunni del nuovo seminario. Fin da giovane Frint cominciò a frequentare quel ristretto circolo di personalità viennesi che animarono la rinascita delle coscienze religiose, interiorizzarono la liturgia, fecero risorgere le pratiche della devozione popolare, svilupparono i catechismi e il popolo. L'itinerario di studio di apostolato di Frint è segnato da una parte da placet imperiali per l'organico inquadramento nelle strutture della Chiesa giuseppina e dall'altra da iniziative che lo posero a capo del risveglio religioso, letterario, artistico, noto con il nome di romanticismo cattolico austriaco. Per me Frinte è un uomo molto complesso, c'è il lavoro di Hospes, ma non è ancora, per conto mio, esauriente, molti interrogativi, siamo visto qualche opera del Frinte, mi lasciano perplesse l'interpretazione dell'Hospes. Come alunno del seminario di Santo Stefano, Frinte tra il 92 e il 95 seguì le lezioni di teologia all'Università di Vienna, alla scuola di cervelli forti, allora, del razionalismo e giurisdizionalismo viennese, i nomi li abbiamo già citati primi. Frinte, terminati gli studi, percorse tutti i gradi della carriera ecclesiastica fino a divenire cappellano di corte, parroco a Hofburg e vescovo di St. Pölten. Dagli scritti e dall'opera risulta convinto assertore dell'ammodernamento della Chiesa secondo gli indirizzi illuministi di Vienna. Questo mi pare un punto forte sul quale non si può recedere, non so. Quindi sulla via della purificazione del culto e di una migliore organizzazione della cura d'anime. Rimase coerente con l'intuizione di fondo del circolo riformisti di Vienna di far progredire la vita cristiana, partendo dalla illuminazione della mente sulle verità fondamentali del cattolicesimo, attraverso rappresentazioni logiche e scientifiche, anziché iconiche e plastiche. Su questo era molto d'accordo con Muratori e sarà ancora più d'accordo con il nostro veneto, qui insomma, trentino, roveretano, Rosmini, Le Cinque Piaghe, scritto negli anni 30. Va bene. Muore nel 35 il Frinte. Frinte iniziò questa esperienza il 13 settembre 95, a 34 anni, come cappellano a Pilixdorf e la continuò nel 801 come cappellano di corte a Lof am Hof a Vienna, nel 1808 parroco a Laa in Thaya e durante il drammatico scontro di eserciti a Wagram, dal 1810 al 26, come 26 per ben 16 anni, parroco all'Hofburg a Vienna. La terminò come vescovo a St. Pölten nel 35, dal 27 al 35. Nel contesto politico religioso del Vormerz, Frinte percorse l'intero curriculum ecclesiastico innervandosi sempre più addentro nel sistema della Chiesa di Stato. Nello stesso tempo si batté per il progresso del benessere della società attraverso la riforma della Chiesa, non solo esteriore, ma anche interiore, alimentata dalla Pietas, e qui è molto vicino all'Offenbauer, quindi si scosta anche per certi aspetti dall'illuminismo, diciamo, di corte. Non bastava dar rilievo pubblico alla religione, secondo Frinte, statalizzare seminari, facoltà teologiche, burocratizzare e potenziare parrocchie e vescovadi. Era essenziale, secondo Frinte, formare la coscienza religiosa soprattutto dei titolari degli uffici e benefici ecclesiastici. In particolare considerava del tutto inadeguato lo schema giuseppino della ristrutturazione dei seminari. I tempi moderni, perché? Richiedevano un clero dotto, ma anche pio, capace di essere guida spirituale delle coscienze e animatore della devozione e della preghiera. E vedremo adesso come attuò questo suo disegno. Per la preparazione di questo clero adatto ai tempi nuovi, il seminario ideale, secondo Frinte, era San Sulpizio, questo è curioso, San Sulpizio del parroco Ollier, del 1642. Neanche il Germanicum. È curioso, insomma, questa. Alla realizzazione di questo progetto, Frinte arriverà gradualmente tra il 1795 e il 1816. Per convinzione personale, e anche poi per l'appoggio ottenuto dall'imperatore Francesco I. Non si propose di distruggere il sistema giuseppino dei seminari e delle facoltà teologiche, cioè non è un pittana, ecco, non è per niente paragonabile a questa figura di prete veneto, ma di superarne i limiti armonizzandone fra loro raziocinio e sentimento, cultura e pietas. Il giuseppinismo aveva cambiato in modo radicale la struttura esteriore della Chiesa, aveva favorito il progresso della scienza e della religione. Il giuseppinismo era divenuto la religione dei circoli borghesi, delle élite intellettuali e della massima parte del clero. Era poi patrocinata dalla corte, era insomma in certo senso il parto, ecco, della corte di Vienna, no? Maria Teresa, eccetera, Giuseppe II, aveva favorito l'integrazione della Chiesa con l'apparato amministrativo dello Stato in maniera inestricabile. Per i circoli illuministi fautori della politica giuseppina, la riforma avrebbe dovuto sconfiggere una concezione clericale dello Stato, emarginare gli ultramontani, cioè un certo giacobinismo che nel Veneto, insomma, così trasuda dalle vene, non c'è nel mondo, non è paragonabile meno con così un radicalismo del mondo viennese, il mondo insomma dell'area così danubiana. Garantire indipendenza e libertà della Chiesa austriaca da Roma. In un periodo di celebrazioni centenarie di Lutero, ecco, notiamo, 1817, siamo negli anni, 1816, poi 17 funziona questo Frintaneum, siamo in quell'epoca. Il progetto di riforma da parte cattolica si coloriva anche di sfida con i protestanti e i liberali sul piano delle motivazioni pro e contro l'una e l'altra confessione o ideologia, ecco, possiamo dire anche religiosa. Secondo le prospettive dell'Aufklärung cattolico di Vienna, i rappresentanti protagonisti del confronto dovevano essere i preti secolari, acculturati secondo il progresso scientifico nel campo della filosofia e della storia. Frint è profondamente convinto che il progetto di riforma si doveva attuare nel contesto evangelico. Ecco la nota, non basta. Fate vostri discepoli tutti i popoli, voi siete il sale della terra. Egli visse questo ideale evangelico intensamente nella cura d'anime a Pilixdorf, a La, a Vienna, St. Polten. L'illuminazione interiore doveva precedere la formazione del cuore nell'esperienza della vita personale e apostolica del pastore d'anime. La contemplazione doveva fondare le scelte morali. La sua vita si snodò tutta nello studio dei classici antichi e moderni di teologia, nell'insegnamento della religione, nelle opere caritative. Frint fu costantemente uomo di studio, direttore delle anime, predicatore e autore di libri di religione. I suoi interlocutori preferiti furono i sacerdoti e i giovani. Tra il 1801 e il 1808, come cappellano di corte a Vienna, Frint perfezionò questo disegno e programma di vita. Per il suo stile elegante e sobrio, per il timbro della voce melodioso e suadente, sapeva esporre in maniera facile e persuasiva l'essenza delle verità cristiane, anche nei suoi concetti più ardui. Non rinunciò mai al quadro di sintesi generale, coerente e logico, per indulgere il sentimento e la divagazione letteraria. Sapeva trasfondere negli uditori l'afflatto e il fervore mistici zampillanti da un'anima profondamente religiosa. Questo è un dato, un altro importante, nel senso, perché il primo Ottocento è anche il periodo di un romanticismo un po', insomma, così, all'acqua di rose, tutto, insomma, lacrime, eccetera, no? Lo si trova anche più avanti nel Veneto, insomma, questo cristianesimo lacrimoso. Ma ecco, Frint non voleva questo. Frint, tra 1802 e 1804, come direttore spirituale del convitto per i teologi, ecco un'altra novità fondata in quell'anno, convitto per teologi a Vienna, di recente istituzione, svelò doti eccezionali anche nella introspezione degli spiriti, nella guida delle coscienze. Durante quegli anni, assieme ad Arnaut, battagliò, un'altra novità assoluta, ecco, nuova, per ottenere dall'imperatore Francesco I l'introduzione nei licei, nelle università, di una cattedra specialistica della scienza della religione. Scienza della religione, chiamata. Anche a Padova venne introdotta una novità, come penso novità. Il primo titolare in tutto l'impero fu Frint a Vienna, 1804. Nello stesso... Sì, importantissimo. Questo, notiamo, questo è un dato. 1802-804, sarebbe da studiare, sarebbe da approfondire. Perché poi ha scritto anche un libro, ha scritto un testo proprio per gli studenti, studio teologico, anche a Padova. Adesso c'è il professor De Vivo, che anche il nostro professor conosce. De Vivo sta facendo uno studio su Dianin, che è stato insegnante alla facoltà di filosofia, detta così, a Padova, no? Ed era specialista in pedagogia a Padova, e ha attinto a questi testi. Pedagogia era intesa, no, come educazione del cuore, della mente, ma non in uno schema, diciamo così, laico, laicista, meglio, no, di separazione il cuore dai valori religiosi, ma invece valori religiosi che si integrano nella vita. E Dianin attinse questo. Ecco, 1804. Nel testo preparato durante quegli anni, egli insiste su alcuni concetti fondamentali. Per esempio, mi ha sorpreso il cristocentrismo. Però, ecco, Cristo, autore della religione e della legge, modello sublime di perfezione anche umana. Ecco l'uomo sociale che riemerge. Sarebbe interessante, io non l'ho questo testo, me lo sono fatto fotocopiare, una rarità lassù a Vienna, ma non l'ho ancora studiato, quindi non potrei. Sarebbe un tema di studio, ecco, di ricerca. Cappellano, parroco a Loffburg, Frint poté constatare che i ceti dell'alta aristocrazia avevano bisogno, alla stessa maniera dei ceti umili, di Pilsdorf e di Laa, dove era stato cappellano e parroco, di una profonda e motivata conoscenza della dottrina cattolica, senza la quale era fatuo un progetto di moralizzazione del costume. Senza l'assimilazione dottrinale, gli stessi pastori d'anime sarebbero rimasti prigionieri dell'apparato amministrativo e burocratico dello Stato e delle mode culturali. Nel 1813, ecco un'altra novità, non è studiata, non è stato fatto studi su questo, fondò la Theologische Zeitschrift come strumento per l'istruzione permanente, adesso si dice, ma non c'è allora questa parola, del clero, per l'aggiornamento sul progresso delle scienze teologiche, per l'addestramento nel dibattito critico sull'indifferentismo, il razionalismo, il liberalismo, per la meditazione sul valore positivo del celibato ecclesiastico. C'era una grossa battaglia anticelibataria, c'era anche battaglia anticelibataria in quell'epoca, no? Ecco uno dei valori. Il breviario, che non si diceva più, un'altra battaglia, cioè antibreviario, no? Contro i monaci, eccetera, robe di frati, eccetera, queste cose. Poi sulla vocazione sacerdotale, anche adesso hanno il problema dei preti, no? Si fanno e disfanno questi seminari, ecco, cioè, tutti i dibattiti, insomma, sarebbe interessante almeno vedere, insomma, che cosa si è discusso su questi temi. La rivista si proponeva di sottrarre il clero dei rischi del freddo razionalismo, si dice nell'introduzione, scritta da Frint, ma anche dalla fuga verso un evangelismo emotivo, una pietà sentimentale. Frint non ebbe la genialità e la personalità di un Seiler, almeno mi consta, insomma, almeno non è noto, non è famoso, non si conosce, né la tempra mistica di un Hofbauer, no? Molti scritti in movimento. Tuttavia, dell'uno e dell'altro condivideva, a me sembra, la tensione della riforma interiore della Chiesa. Come scrisse Weber, non si deve cercare in Frint una mente speculativa, ma fervore mistico, vivacità di ingegno, una grande chiarezza e imparzialità di giudizio. Come cappellano, vi lascio fuori adesso queste alcune altre pagine che riguardano, vorrei venire al progetto, e il progetto del Frintaneum, cioè, e per, insomma, andare al sodo, andare alla sostanza, insomma, questo San Sulpizio trapiantato a Vienna, insomma, mi è molto incuriosito. Questo Germanicum, che era pure, insomma, creatura del mondo tedesco, no, chiuso, e non ci si appella a quegli statuti. Poi questo uomo, pure singolare, no, poco studiato, e perciò che cosa, la mia ricerca lassù a Vienna, dove è stata, insomma, cercare, insomma, gli statuti, no? Li ho trovati, gli statuti originali, quelli del Frint, mi sono fatto fare da tutta macchina, poi anche da filo scritta. Frintaneum poi un campo di ricerca difficile, perché nell'ottobre del 1848, no, quando si è passati dalla rivoluzione dolce del marzo a quella, insomma, tutte bombe, tutto fuoco, no? Tutti i massacri, piccagioni, eccetera, dell'ottobre, allora il bersaglio, uno dei primi bersagli, insomma, quello più messo, è stato il Frintaneum, perché dicevano, quelli sono i preti imperiali, no? E allora in quel momento di sfascio fu proprio buttato bombe, fuoco, chiesa, tutto, e purtroppo tra queste distruzioni, no, c'è stato anche l'incendio della biblioteca, così che è rimasto qualche cosa. disperso. Qualche cosa si trova nella biblioteca, nell'archivio dell'Arcivescovado, ecco, chi volesse c'è qualche cosa, lì, molto dispersa, molto difficile. Qualche cosa adesso è salvato nel nuovo istituto di San Tommaso, ma è molto poco, insomma, c'è un recupero successivo degli anni 50 in poi. Perciò io ho pensato che fosse meglio, no, per dire qualcosa di sostanziale, andare a questi statuti che sono quelli di Frint, approvati dallo stesso imperatore Francesco I. Ebbene, manca poi la proiezione storica perché ci sono state delle modifiche, ma almeno possiamo avere alcuni dati su questo progetto, no? L'idea, insomma, il funzionamento. Leggerò magari una parte, ma poi anche una pagina. Il 1813 è la rivista, di appena 3 anni precede questa rivista, la fondazione dell'Istituto di Educazione Sublime per il Clero Secolare, di cui Frint fu l'ideatore e poi anche animatore per ben 10 anni, 11 anni, 1816-1826. Nel 26, gennaio del 27 fu nominato vescovo e quindi dovette abbandonare questo compito. Volle trapiantare effettivamente a Vienna il modello del seminario di San Giacomo Olier, di Gian Giacomo Olier, parroco di San Sulpizio. Ed allora, che cosa si proponeva questo San Sulpizio? Riunire, cioè era critico come Rosmini sui seminari, seminari tridentini, no? Che appena loro stavano sorgendo, qualcosa di sciatto, insipido, ecco. Perciò, non seminari per fanciulli, infanti, no, 11 o 12 anni, ma invece seminari per adulti, giovani, candidati al sacerdozio che già avessero compiuto studi umanistici e fossero disposti a far vita comune con i superiori e i professori per una cultura superiore. Quindi, centro era la vita di pietà e l'altro centro era lo studio. Ma uno studio che doveva nascere da un lavoro, si dice oggi, di equipe, ecco, un lavoro di interdisciplinare anche, se si vuole, ecco, questo è il criterio, cioè il concetto di fondo. E Frint in sostanza si appellò a questo disegno e lo fece suo e ottenne dall'imperatore il patrocinio perché fosse realizzato a Vienna e venne attuato. L'attuazione del disegno fu facilitata anche dal fatto che c'era il rigido divieto in vigore fino al 48 a tutti i teologi dei territori della corona di frequentare il Germanicum a Roma, quindi questo era un elemento di favore per Frint. Il nuovo istituto era sostitutivo di quello romano, voleva essere, cioè in queste carte si trovano, e vertice di tutto il sistema teologico austriaco. Sotto questo aspetto, nessuna istituzione ecclesiastica rispecchiava la politica religiosa di Maria Teresa e di Giuseppe II, quanto a Frintaneum. Frint ne fu il progettista, ma l'esecutore fu Francesco I, che non deflette minimamente dalla politica giurisdizionalista. Convissero perciò nell'istituto, fino al 48, due orientamenti fra loro per certi aspetti divergenti: l'ideale seminaristico teologico dell'Olier e il modello teresiano giuseppino. Vedremo, questo si trovano anche negli statuti. Nota fondamentale ne divenne la vita comune. Superiori, direttori degli studi, alunni lavoravano insieme per le stesse mete, abitando la stessa casa, sottostando alla medesima disciplina, orario, vitto, preghiera. In piena coerenza, la staff, chi era? C'era il superiore, poi c'erano 3 o 4 direttori degli studi, un direttore o due dello spirito, e poi c'erano i cosiddetti inservienti, addetti ciascuno a un proprio. Non so, per esempio c'era anche uno addetto alla guardaroba, cioè anche nel vestito, dovevano essere la sublime educazione, cioè questi preti sciatti, cioè, non era tollerato, quindi c'era uno specialista alla moda, diciamo, anche del vestito. In piena coerenza con l'indirizzo di Maria Teresa e Giuseppe II, alunni potevano essere soltanto sacerdoti secolari delle province dell'impero, non c'è nessun religioso in tutto questo periodo. Dal 1860-70 poi ci saranno pochi religiosi. I religiosi ne erano del tutto esclusi. I candidati dovevano aver superato gli esami scolastici, non soltanto studi umanistici, ma anche scolastici. Cos'erano gli esami scolastici? erano quegli esami di cui ho parlato prima, cioè che si facevano i seminari generali, cioè esami di dogmatica, morale, eccetera, biblica e generale. Cioè i corsi normali di teologia che si impartivano nei seminari generali e negli istituti autorizzati dall'imperatore. Potevano essere accolti solo i migliori candidati, che avessero già dato prova di eminenti doti di intelligenza e di animo, di attitudine allo studio e all'impegno ascetico e alla pietà. Francesco I aveva ripartito i posti per nazioni, Ungheria, Boemia, Moravia, Galizia, Carinzia, Carniola, Tirolo, per province, Salisburgo, Trieste, Gorizia, per regioni, Lombardia, Venezia, eccetera, per unità amministrative e territoriali, Austria inferiore, cioè, ecco, è diverso, è molto variegato il criterio, perché i fondi erano diversi. Da dove traevano i fondi, insomma, la corte, l'imperatore, per dare a pagare anche il viaggio di andata e ritorno, pagare il vestito, tutto, i libri a questi studenti, pagare la staff, eccetera. Il fondo era o quello del fondo generale, oppure i vari fondi che c'erano di religione dispersi nell'impero, oppure anche c'erano i benefici. Ecco, c'era un beneficio molto esteso, vastissimo, litigi a non finire, tribunali, processi in Ungheria per avere i soldi, no? I fituari non pagavano più. Dopo il 48 non davano neanche più un soldo per l'istituto. Frinta aveva intuito, ma l'imperatore aveva stabilito e definito il traguardo dell'istituto, di formare intellettualmente e moralmente un'elite di sacerdoti qualificati scientificamente e dottori in teologia, in grado di essere, e questo è importante, primo, professori di teologia nei seminari generali e nelle università. Non so, io credo che in Europa non ci sia un caso analogo di un'impresa culturale così grande, di preparare tutti i professori, non potevano essere professori se non quelli che seguono da questo istituto, seminari generali e delle università. Si capisce in campo teologico, no? Poi, superiori e direttori spirituali dei seminari, cioè quelli addetti alla formazione morale, generali, no? Terzo, le più prestigiose sedi arcivescovili e vescovili, vi ho già 11 cardinali, poi un numero grandissimo di vescovi. Ultimo, scrittori anche abili, forbiti, in modo da mettersi in concorrenza con i protestanti liberali. Totti Hammer viene fuori da qui, Totti Hammer, non noto, le cui opere tradotte anche in Italia, viene fuori. Poi ho visto ci sono anche altri scrittori apporti nel metodo educativo moderno, eccetera, negli asili, eccetera, viene fuori da questa scuola. In grado, cioè, di sostenere il confronto con i pionieri delle moderne correnti di pensiero. Il fine specifico non era tanto la moltiplicazione dei titoli accademici in teologia, quanto la qualificazione per settori di un ristretto numero, per settori, un altro punto importante, poi vedremo quali sono questi settori, di un ristretto numero di sacerdoti secolari distribuiti in tutte le città dell'impero. In un secolo, insomma, circa vennero fuori 850 qualificati, pochi. I presenti furono 1000, ma le domande furono molti di più. Erano scartati per la salute, ho detto, quel regime, ma senza corpo, no? Non c'era corpo, non dovevano né aver fame né aver sete né freddo, non so capire, un orario dalle 5 e mezza del mattino fino alle 10 della sera, neanche un minuto per decidere di se stessi, niente, per entrare, uscire, fare ricreazione, non so, non c'era spazio, tutto era secondo un regime terribile, non so. Questi sacerdoti, altamente specializzati e addestrati al lavoro scientifico, dovevano essere capaci di sostenere il confronto con i rappresentanti delle moderne ideologie filosofiche, promuovere correnti di pensiero di ispirazione cattolica. Quindi tra gli esercizi c'era anche quello di preparare studi che poi confluivano nella rivista fondata da Frente, no? Per il confronto. Sul piano della politica culturale cattolica, Francesco I tenne in vigore il principio della tolleranza confessionale, combatté i circoli liberali, no, cosiddette massonerie, sette segrete, imponendo ai candidati del Frintaneum un giuramento antiliberale, antisettario e antimassonico, però non c'era un giuramento antiprotestante, eccetera, antiluterano, tutte queste cose, ma c'era la massima libertà invece nel campo religioso. Così pure in quella, io ho trovato, non la biblioteca, ho detto antica, che è stata distrutta, ma ho trovato l'elenco dei libri per accessione, 1816, illeggibile, terribile, una scrittura illeggibile, però è un manuale ancora così scritto a mano, no? E con diverse scritture, ce l'ho, vorrei pubblicarlo perché è interessante. E ci sono i testi anche protestanti, ecco, non era, però del mondo tedesco, del mondo francese, degli italiani soltanto la Semmani, no? Dei primi anni poi, chiaro, più avanti ci sono. Ma il periodo più significativo è 1816-1848, no? Quando c'è l'impostazione, e più sì, tutto il mondo protestante, no? Tubinga, eccetera, sono presenti in questo, erano presenti. A differenza dei seminari generali che preparavano gli alunni alla sintesi dottrinale, il Frintaneum addestrava l'analisi filologico-critica per il lavoro scientifico nel settore della filologia e degli studi storico-biblici e su quello della pedagogia, della didattica e delle scienze pastorali. Per l'ammissione, perciò, i candidati, oltre l'assolutorio degli studi teologici, dovevano sostenere prove di esami davanti ad una commissione appositamente costituita dalla direzione dell'istituto. L'esito negativo delle prove, nonostante i giudizi positivi sull'attitudine agli studi dichiarati dai vescovi, il filtro qual era? Direttore degli studi, no, professori, direttore degli studi, vescovo, poi patriarca oppure metropolita e finalmente il tutto al superiore del Frintaneum, cioè Frint in questi 10 anni, Frint alla corte imperiale che aveva una sua commissione e poi non si accontentavano prove orali e scritte per l'ammissione. Importava l'esclusione del Frintaneum. E qui gli istituti recitavano: la nostra età è portatrice di correnti di pensiero erronee, i cui falsi principi e assiomi non si possono confutare che sul terreno della scienza con un metodo rigorosamente critico. Ragione e storia erano i due fondamenti della moderna teologia. Al traguardo finale di specializzazione per settore in teologia erano subordinati i criteri di giudizio per l'ammissione dei candidati al Frintaneum, per la formulazione dei programmi, per l'organizzazione interna della vita dell'istituto. Per la formazione intellettuale, oltre la frequenza alle lezioni universitarie, gli alunni dovevano seguire ripetizioni, prima linea, spiegazioni, secondo fascia, terzo, colloqui attivati dal collegio dei direttori del Frintaneum, detto erano tre così. Mentre nella facoltà teologica a Vienna e altrove si era affermato il criterio di propedeuticità dei corsi istituzionali, al Frintaneum valeva il criterio della specializzazione per settori. Durante l'impero di Francesco I, nei prospetti degli studi a Padova, per esempio, no? Modellati su quelli di Praga e di Vienna, ci sono per gli stessi anni, no? Questi prospetti, le discipline storico-bibliche del primo e secondo anno erano propedeutiche alla teologia dommatica e morale del terzo anno e queste alla teologia pastorale del quarto anno. Al Frintaneum i settori di specializzazione erano tre e fra loro distinti e separati. No? Però, quali erano? Primo, Antico, Nuovo Testamento, dommatica, primo settore. Quindi uno la spesa faceva in quel caso. Secondo, morale e pastorale, secondo gruppo. Terzo gruppo, storia della Chiesa e diritto canonico. Interessante, viene messo in questo settore. Storia della Chiesa e diritto canonico. Quindi, il piano degli studi non era uniforme per tutti, come nei licei, nelle università, ma differenziato alunno per alunno, secondo le attitudini dimostrate nel precedente curriculum teologico, nelle prove sostenute davanti alle commissioni, e poi, un altro punto importante, in vista della probabile futura destinazione, cioè il piano di studi era finalizzato anche alla professione, noi diremmo, al ruolo. Quindi, padre spirituale doveva fare il suo piano di studi per questa sua funzione. Il superiore della casa, no, per questa sua funzione. Non so, per il dommatico, allora ecco la sua specializzazione. Per ogni singolo alunno, perciò, erano previsti piani di studi e strumenti particolareggiati. Il settore più nuovo e impegnativo, vorrei insistere almeno su uno, poi le altre le assicurano, era quello degli studi biblici, in cui per l'impulso e il prestigio di Yam, in quell'epoca, erano prevalsi i canoni del metodo filologico critico. Gli esami di esegesi biblica, vetero e neotestamentaria erano preceduti da quelli delle lingue orientali e greca, i dialetti già accennati. Nei paesi di lingua tedesca, all'avanguardia dell'indirizzo filologico critico erano stati i protestanti, i cui risultati, recitano gli statuti, erano spesso strumentalizzati in senso anticattolico. Gli avversari della Chiesa cattolica abusano del progresso scientifico raggiunto in questo campo. I circoli intellettuali cattolici dovevano dare una risposta sullo stesso piano del metodo critico storico. Dicono parole testuali, preparatevi a questi esami rigorosi in modo tale che si comprenda che voi alunni del Frintanen ne siete pienamente convinti. L'importanza di questo settore di studi è provato anche dal Catalogus Librorum Bibliotheci Instituti Presbiterorum ad Santo Agostinum, che ho già accennato a tutte queste lenti. In particolare, per la specializzazione in scienze bibliche, gli alunni erano tenuti a seguire i corsi accademici all'Università di Vienna del professore di lingue orientali, che due volte alla settimana impartiva anche lezioni di esegesi sublime. Gli iscritti, c'è lo statuto, dicono così, ai corsi di lingue orientali erano obbligati a frequentare anche le lezioni di esegesi sublime e a sostenerne gli esami. Questo criterio valeva anche per chi si iscriveva nel secondo semestre allo studio, poi tutti i particolari che fa il primo e il secondo, eccetera. In ogni caso, non si poteva in nessuna situazione, non si poteva mai fare un esame biblico dal quale poteva dispensare soltanto l'imperatore. Gli statuti precisano la dispensa dagli esami, tutti o in parte, per qualche urgente necessità o su richiesta del proprio vescovo, poteva essere data soltanto dall'imperatore. Perciò, le cause di esclusione erano moltissime. Politiche, l'impreparazione, la salute, un esame che andava male, non si poteva più ripetere, un previum non riuscito, un previum ripetuto, poi insomma, così scadente. Perché? C'era un'altra idea che, insomma, l'esame positivo o negativo dello studente era onore e disonore dell'istituto, ne veniva meno insomma la fama, il prestigio. Il curriculum propedeutico al dottorato, in tutti i suoi gradi, era vincolante per tutti. Si apriva con una prova di dommatica, morale e pastorale, necessaria questa anche per l'esercizio della cura d'anime, c'era anche l'aspetto. Continuava con i colloqui sulle capacità attitudinali, quindi alla linguistica, non so, con la dommatica, alla raziocinio, e le ripetizioni e le spiegazioni all'interno dell'istituto e le lezioni all'università, e con i previ colloqui di accertamento sul livello di preparazione. Ciascun alunno organizzava il curriculum e gli esami d'accordo con il direttore degli studi del settore di specializzazione biblico-dommatico, morale-pastorale, storico-canonico. I direttori degli studi erano gli elementi, in questo caso, portanti della vita di studio e di disciplina dell'istituto. Vi ricordassi, ecco qui accenno io voce direttore, ma andrebbe approfondito questo tema, perché anche nell'università il perno del tutto era il direttore, non era il rettore magnifico, non erano i decani, non erano i professori, nessuno, era il direttore, anche in questo istituto. Direttore era non proposto da nessuno, scelto unicamente dallo stesso imperatore, e rispondeva il responsabile verso tutti, anche il rettore, e responsabile soltanto davanti all'imperatore. Anche qui i direttori avevano un compito preciso. Cioè, questo giudizio che vi ho letto del Valbusa, prima, è firmato dal Frint, ma era redatto dai tre direttori, i quali giorno per giorno dovevano fare il diario sul comportamento di tutte le azioni, tutte, anche quanto mangiava, eccetera, se dormiva mezz'ora di più, di questi ragazzi, questi studenti che erano da dentro. Facevano una specie di resumé, poi finale lo mandavano all'imperatore, così che era personalmente informato anche sulle doti così anche esterne, corporee, la resistenza al lavoro, eccetera. E questo è il perno. Quindi conoscere i direttori, ci sono i nomi. conoscere i direttori e quanto conoscere, insomma, è scrittori anche importanti, ho visto, sono autori di molte opere di dogmatica e teologia, e quanto capire un po', insomma, l'impostazione. Invece non ho trovato nessun piano di studio, ecco, questo no. Cioè, ho trovato i risultati, ci sono questi risultati, ma come erano organizzati? Questo non sono riuscito a avere in mano proprio niente. Erano nominati dall'imperatore, dovevano essere cultori di filosofia, teologia, conoscere lingue e dialetti, lingua greca, lingue orientali, eminenti nelle discipline storico-canonistiche, scrittori, autori di libri, in grado di tenere lezioni di esegesi sublime. I loro compiti erano molto estesi. A loro spettava vigilare sull'impiego del tempo, tener conto delle occupazioni di questi chierici, anche distrazioni, stimolarli ad un assiduo e diligente lavoro di studio, far loro comprendere l'importanza di futuri ruoli nella società, la nobiltà quindi dei fini educativi dell'istituto. Non dovevano accontentarsi di una vigilanza puramente esteriore, ma con tutti gli accorgimenti dovevano accertare l'impegno giorno per giorno, ora per ora, dei singoli per il progresso della scienza e della pietà. Dove tenevano lezioni, ripetizioni, spiegazioni in casa, uno per uno oppure anche a gruppo, caso per caso. Sottoponevano tutti gli alunni ai previa in maniera severa, prima degli esami rigorosi. Ai previa gli alunni arrivavano dopo un lungo tirocinio quotidiano di studio, eccetera, di colloqui, seminari, noi diremmo i nostri giorni. Procuravano tutti i sussidi didattici e scientifici utili alla migliore riuscita degli... Almeno tre volte negli statuti si legge che l'imperatore non lesina per niente, cioè l'unico punto sul quale non lesina, lesinava su il menù, ho visto, bisogna tagliare, eccetera, invece sui libri. Tre volte nei statuti dice che l'imperatore non ha nessuna remora, anche se si aumenta insomma, la domanda per i libri, lui è disposto a pagare. Davanti e superiore all'imperatore erano responsabili dell'esito negativo e positivo degli esami rigorosi, che sarebbe, esito che sarebbe tornato a disonore e ad onore dell'istituto. I compiti dei direttori si estendevano anche alla vita igienica, sanitaria, alla disciplina anche più minuta e insignificante di questi alunni. Secondo la concezione di Frint, salute fisica, esercizio ascetico delle virtù cristiane e progresso intellettuale camminavano assieme. Perciò questo sforzo anche fisico, insomma questa vita insomma, spartana, era una prova. Prova anche di equilibrio psichico. Questo è il concetto. Di conseguenza il mal di stomaco eccetera, cosa facevano? Di solito anche adesso nei seminari, no? Anche io vivo sempre da 30 anni, 40 nel seminario, no, provo quando uno anche ha crampi nello stomaco, poi gli vengono le crisi, non so, delle visioni secondo insomma, le situazioni, no? E volevano verificare invece anche davanti ai crampi che cosa succedeva, no? È curioso, ci sono i menù, questi li ho trovati, dovrei essere aiutato da un medico per leggerli. Perché è interessante, no? L'ora del pranzo, la cena, eccetera, la distanza, il vino, l'uso, quanto, come. Ogni giorno era fissato. C'era poi anche, era studiato da medici, tre medici c'erano dentro. Tre medici avevano, per 20 alunni tre medici erano, che vedevano anche su queste cose, che cosa si comprava, cosa si mangiava. I nostri veneti dicevano soltanto male, ecco, ci sono, tutte le lettere dicono soltanto... Non erano capaci. Perché le lettere, tutte quelle che ho trovato, dei vescovi che scrivono a questi all'imperatore in pratica e chiedono dispensa dall'esame perché gli andava male al seminario, no? Non dormiva da tre notti per i crampi. Va bene. E allora chiede subito che si sia riammesso perché la ragione è medica. E salute, ragione medica, il medico del paese ha certificato che ha i crampi e l'ulcere così. E solo e soltanto questa, solo e soltanto questa, soltanto Pittana, ecco, quello era dentro nella politica, ma tutti gli altri, queste ragioni. Bene, non era possibile la contemplazione della verità senza la fuga delle occasioni del male e senza l'esercizio delle virtù. Le norme disciplinari volevano educare alla vita di comunità per la crescita intellettuale e morale. Ci sono anche alcune norme, sono un po' in fretta, che riguardano il costume, il cuore, così, l'educazione del cuore. Ogni giorno, l'itinerario qual era? Ascetico. Ogni giorno si privilegiava la vita comunitaria, almeno che riassuma un po' questo. Ogni giorno preghiera il mattino, la sera, però, ecco, questo è soltanto una cosa, no? Chi è stato in seminario più o meno ci si ritrova dentro, ma l'idea era questa, che queste preghiere, quindi anche noi diciamo quelle devozionali, no? Quelle della spontanea pietà dei singoli, doveva essere agganciata alla Bibbia e ai padri della Chiesa, cioè non si lasciava, quindi erano sempre intercalate da letture dei padri della Bibbia, nessun libro devozionale, cioè tutta la sostanza era preghiere, casomai il credo, ecco quello costantinopolitano, non i credi, cioè, niente per preghiere della mamma, della nonna, niente, niente. Anche devozione alla Madonna, niente. Se non quelle essenziali che si riconducono alla Bibbia, alla festa, alla messa, eccetera. Per quanto riguarda, mi interessava la confessione, no? E la comunione, eccetera. Non so, qui si deve da vedere, perché il giansenismo, che pure c'era a Vienna, no? Importava un certo rigore per la messa quotidiana e anche comunione quotidiana. Ora, i preti erano invitati a celebrare la messa ogni giorno. Tutti i seminaristi, invece non preti, andavano alla messa ogni giorno, ma era prevista la comunione una volta all'anno. Ecco qui, una volta al mese, perdono. Una volta al mese con la confessione. Confessione è come una volta al mese obbligatoria. Qui c'è lo zampino giansenista, rigorista, bisognerebbe approfondire un po' di più, ma non so. Comunque dalle 5:30 del mattino d'estate, dalle 6 d'inverno fino alle 22 non c'era, come vi ho già accennato, anche per uscire, per entrare, dove vai? Da chi vai? Poi le proibizioni non vi dico, c'è un resoconto di un alunno, della sorella che vuole insomma visitare, vedere il fratello. Ed allora, prima domanda, il portinaio dice no, donne non possono entrare dentro, perché una donna, la sorella, non può entrare neanche all'ingresso, non può. E allora, permesso chi si va? Allora, permesso il primo direttore, secondo direttore. Conclusione, la sorella se ne sta fuori, va a casa e non vede il fratello, perché non può entrare a contatto con le donne. C'era un divieto spietato con le donne, non potevano avere nessuno contatto. Va bene. Non parliamo poi delle osterie, eccetera, dei teatri. Dovevano uscire a due per due, mai da soli, sempre con la veste, eccetera, ma no? Una cosa curiosa, sono incuriosito un po'. Nella statuta si legge che gli alunni dovevano riflettere con quanta attenzione erano osservati, uno per uno, dai direttori degli studi, e quello spirituale, dagli estranei, del superiore, con quanta puntuale diligenza i direttori dovevano redigere relazioni semestrali sul loro comportamento all'imperatore e al vescovo. E qui c'è una frase che sintetizza tutto, per conto mio, tre elementi insomma che si incrociano ma anche si elidono. Ve la leggo in latino, e si parlava in latino là in quell'istante, soltanto latino, perché poi vedremo. Caesaris clemencia nos urget, ecco il primo elemento, no? Progetto, tutto il mondo giuseppino, cioè. Secondo, ratio postulat, cioè metodo critico, scientifico, storia e ragione. E poi terzo, questo è l'olie, Christus ad cuius nomen ordinati sumus nobis precipit, ut diligens virtutis studium cum intellectus cultura coniungamus. Non so, occorre che traducano in latino così semplice. Che si... Ecco, nessuna frase sintetizza in maniera tanto efficace il composito e difficile intreccio di fini e motivi per certi aspetti contraddittori presenti nel Frintaneum. Di fatto, il disegno del Frint di far crescere sacerdoti salterre ed eminenti per la sapienza cord mentis et cordis si attuava attraverso una struttura di chiesa di Stato rigidamente burocratizzata, come si può avvertire in molti canoni, molti statuti. Il curriculum scientifico necessariamente filtrava attraverso il piano di studi di Vienna, anche dal lato disciplinare, i vincoli del Frintaneum con il potente apparato burocratico amministrativo statale dell'età metternichiana erano strettissimi. In nessun altro istituto ecclesiastico quanto nel Frintaneum l'alto patronato dell'imperatore era nello stesso tempo generoso e soffocante. Personalmente l'imperatore si interessava di procurare i fondi necessari per le spese, edilizie, vituari, eccetera, biblioteche, salari, personale, il viaggio anche. All'imperatore tuttavia spettava il diritto di nomina dei titolari di tutti gli uffici, servizi del Frintaneum, del superiore, del portinaio. Piani di studio, norme disciplinari, criteri per valutare le qualità morali e intellettuali, ammissione all'istituto, futuri ruoli, assolutorio teologico, anche il progetto per il futuro impiego dell'alunno era fissato dall'imperatore, no? Di ciascuno in particolare l'imperatore voleva conoscere non solo i risultati scolastici, ma anche i pregi della voce, le qualità fisiche, le doti dell'animo, la bontà del cuore, si chiede se ce l'ha o non ce l'ha, se nei rapporti interpersonali, insomma, è arcigno oppure non so, è dolce, ma è così. La sostituzione del vescovo è proprio totale. Io non ho trovato vescovo, tanto vescovo, un imperatore così vescovo, insomma, come in questo caso, no? Fino. L'imperatore esercitava una vera e propria giurisdizione sul seminario, dal lato intellettuale e morale. Gli statuti recitavano, leggo ancora la frase 2, voi siete educati proprio come se foste alla presenza dell'imperatore, che per singolare favore si degna di sostenere con somma liberalità l'istituto e che riceve di semestre in semestre le relazioni del superiore della casa sul progresso intellettuale e morale di ciascuno in particolare e che perciò è continuamente informato sul comportamento dei singoli. Unico rappresentante dell'imperatore era questo parroco del Hofburg, che per diritto era anche superiore, destinato sempre ad essere poi vescovo, tutti sono diventati vescovi, questi superiori. Aveva il diritto di sorvegliare in tutto ciò che si riferisce all'indirizzo e al fine dell'istituto. Il superiore pure aveva una funzione molto estesa. Era lui che aveva il diritto di convocazione delle assemblee dei direttori, era pure lui che doveva fare il resoconto finanziario, preventivo, poi consuntivo, così pure finanziario e anche morale sull'istituto, quindi era lui che presiedeva poi tutte le riunioni a vari livelli, eccetera, spirituale o disciplinare, era lui che stabiliva anche i libri che si potevano leggere, comprare, controllava le era lui che vidimava per ultimo, no, il piano di studio dei singoli, il progetto, che fissava le previa e anche i criteri, e valutava gli assolutori dei vescovi. È interessante, se c'era un suo giudizio negativo sull'assolutorio del vescovo, che era una specie di placida del vescovo, non sulla persona, la figura, insomma, di questo, se c'era il veto era escluso, ho trovato dei casi di preti esclusi. Particolarmente meticolosa era la stesura delle cosiddette testimoni, no, di cui ho letto questi qui, erano ogni semestre, non ci sono tutti, ce ne sono alcuni, io ne ho trovato una novantina qui nel nostro ambiente. Quindi relazioni testimonia, che era un bilancio consuntivo sul comportamento dei singoli redatto giorno per giorno dai direttori degli studi e dal direttore spirituale. Al superiore spettava tenere relazioni con le autorità locali delle varie regioni dell'impero. Questo è un atto ancora interessante. Sotto questo aspetto, i frintanisti, più di ogni altro cittadino, erano tenuti all'obbedienza e fedeltà alle leggi dello Stato. Obbedienza e fedeltà che derivavano dal fatto che l'imperatore aveva preso sotto la sua immediata protezione gli alunni in vista di affidare loro particolari e importanti compiti per lo Stato e per la Chiesa. Il rapporto con l'imperatore si esternava anche con la presenza di questi frintanisti alla stessa liturgia imperiale, cioè l'Hofburg andavano nella cappella imperiale, e continuava anche dopo le dimissioni dell'istituto attraverso i resoconti, questo è una specie di associazione ex alunni, non ho trovato però nessun resoconto di questo genere. i resoconti dei vescovi di anno in anno sul comportamento e sui risultati, diciamo, di questi frintanisti nell'ambiente del loro impiego, non so, universitari, vescovi, no, oppure, no, dico, superiori, non so, a vari livelli. Con l'ingresso nell'istituto non era spezzato il vincolo col vescovo, il superiore dell'istituto era pienamente indipendente dal vescovo nel pianificare la formazione morale e spirituale dei teologi e pienamente libero anche nell'indicare all'imperatore e al vescovo stesso le attitudini dei singoli a futuri compiti e uffici ecclesiastici e statali. So, ho avuto modo di verificare almeno per un caso nel Padovano che il veto di uno del superiore qui del Frintaneum ha impedito la nomina di uno dei preti usciti del Frintaneum ad un ufficio che insomma, secondo il vescovo era insomma, su misura, ecco, di questo sacerdote. E quindi per certi aspetti questo era superiore anche al vescovo stesso, no? Ci dice insomma, anche il tipo, il modello di struttura. Come certo scriveva Frint che la ribellione di un frintanista al proprio vescovo, tornato nella diocesi, sarebbe stata una evidente prova dell'insuccesso della formazione Frintaneum. Con la sua opposizione il frintanista non avrebbe dimostrato né umiltà né obbedienza, che erano i punti cardine dell'ascesi, della vita, diciamo, formazione del cuore propria di questo istituto. Il controllo imperiale, asserivano gli statuti, non aveva fini punitivi, ma pedagogici. Ecco un'altra idea che ci sta alla base. Fratelli, potete confidare che noi, superiori, mentre adempiamo questo obbligo, cioè dei controlli e poi delle relazioni, con tutta sincerità non condanneremo alcuno senza averlo prima ammonito. Voi stessi sapete che noi con animo pronto e ben disposto siamo presenti a tutte le difficoltà, perciò abbiate fiducia e con libertà esprimete ciò di cui avete bisogno per la vostra formazione intellettuale e nello stesso tempo ricevete volentieri tutto ciò che a nostro avviso riteniamo necessario. In questo modo, recitano gli statuti, in piena armonia di mente e di cuore, tenderemo al nobilissimo fine che l'istituto si propone e lo raggiungeremo facilmente. Anzi, di questa unione di tutti uno solo c'è bisogno ai nostri giorni, nei quali moltissimi sono fra loro collegati insieme come la Chiesa di Cristo, contro la Chiesa di Cristo. L'istituto affrontava, perciò, qual era? Frintaneum, in piccolo, cioè così, è in un certo senso un microcosmo, no, che rappresenta il macrocosmo dell'impero, prima. Il Frintaneum, nella sua esperienza, ecco un'altra idea che ci sta alla base, nella sua esperienza comunitaria, è il modello delle future aggregazioni, associazioni, laici, vescovi, eccetera, preti, per tenere testa, mettersi in confronto con altre aggregazioni, i moltissimi, che si aggregano per altre finalità, non so, altre ideologie, altri motivi. Affrontavano perciò gli statuti anche il delicatissimo e difficile problema della convivenza entro lo stesso istituto di sacerdoti appartenenti ad etnie diverse e lingue diverse in nome del beneplacito imperiale. Gli statuti rilevavano il privilegio unico nell'impero, riservato ai frintanisti, di far parte della chiesa della corte imperiale, ecco il giuseppinismo, questa religione di corte, di essere quasi membri della famiglia imperiale, di essere presenti alla liturgia imperiale. Alcuni di loro, di questi frintanisti, erano anche insigniti del titolo di cappellani aulici, vivevano perciò non solo sotto il personale patrocinio dell'imperatore, ma erano anche per diritto funzionari del culto imperiale. Per l'unione di mente e di cuore tra di loro, con appelli tipicamente evangelici e politici insieme, ecco le tre anime di questo istituto, si affermava che i frintanisti, diversi fra loro per lingua, costume e rito religioso, erano amici e fratelli, appartenevano allo stesso Stato e all'unica Chiesa cattolica, erano destinati ad essere i cooperatori dell'unica vigna del Signore, incamminati verso un fine comune. qualunque sia la differenza di lingua e nazione, non ci sia nessun separatismo, dicono, in vista di creare un fronte unito nel futuro, i frintanisti dovevano intensificare reciproci rapporti interpersonali fra di loro e insistere su elementi che uniscono piuttosto che su quelli che dividono. Qui avrei un'altra pagina, ma forse, cioè, vi dico almeno su questo punto alcuni, no, una o due osservazioni, perché già è molto avanti. Ed è questo, per esempio, per quanto riguarda lo Stato, no? Appartenenti allo stesso Stato. Ed allora l'obiezione che facevano i frintanisti era questa, che di fatto se una manifestazione patriottica ci poteva essere, nel frintaneum la patria era identificata di fatto con l'apparato dello Stato. Cioè, non so, un'opera d'arte, si va, non so, all'opera d'arte, bene, si va all'opera d'arte in cui si celebrano le glorie dell'imperatore, quindi dell'impero. Tanto che nel 48, a marzo, quando scoppia la prima rivolta, la prima rivoluzione, tra i più focosi fra tutti i frintanisti, anti-austriaci, furono gli italiani, che incominciarono subito i primi a gridare, a scrivere striscioni, a scrivere viva l'Italia, viva la patria, eccetera. Però allora, come a Padova, i nostri chierici teologi dell'università, l'Italia voleva dire l'Italia neoguelfa. Viva l'Italia neoguelfa, l'Italia federale, una federata con il vertice il Papa. Come si ovviava questo obiettivo? Per esempio, si ovviava attraverso una norma prescrittiva, quindi un'altra coercizione. Era logico, gli italiani si trovavano, almeno nelle ricreazioni, a parlare italiano fra di loro, scherzare sulla barzelletta di sopra di loro. Non so, gli ungheresi erano sempre il gruppo più forte di ungheresi, 9, chi li capiva? Ungheresi, la loro lingua, la loro dialetto, non capiva nessuno. I boemi erano sempre 3-4, pochi. E avanti poi piccoli gruppetti, sono i veneti da 4 a 5 il massimo, gli ungheresi sempre 8-9. Quindi poi c'era il gruppo austriaco 5 e poi altri. Poi i latini erano sempre maggioranza su 25-26, non più di 25-26 alunni, dopo 50 anche fino a 40, fino a 26. Più numerosi erano il gruppo austriaco. Ed allora il problema, come si risolve? Un'altra imposizione, unica lingua anche nelle conversazioni, o silenzio, si tace anche a pranzo, o si sentono letture tutte in latino, potete immaginare, hanno letto tutto in latino, e poi se si parla solo latino, che se per caso due si trovavano insieme e parlavano italiano, oppure boemo, oppure croato, sloveno, eccetera, oppure ungherese, e passava il direttore, ma come facevano a sfuggire tre direttori, quattro, quello, sempre insieme, sempre lì, e poi c'era quello che controllava il vestito, presente anche lui, no? E uno parlava la propria lingua in dialetto, il proprio dialetto, e allora punizione, perché non si poteva parlare una lingua in modo che venendo un altro, il boemo che incontra l'italiano, insomma, quello che viene, in certo senso viene emarginato perché non capisce che cosa si dice, manca insomma la circolazione, ecco, delle idee. Questo. Poi un altro problema molto complesso fu quello dei riti, perché c'erano anche dei greci qui, ed allora il loro rito, e come si fa, c'erano dei ruteni, e come si fa, il problema di dover accettare, ecco questo. C'è una frase, ecco, alla fine, lascio alcune altre indicazioni. Qui c'era una pagina che insomma è tutta olie, molto olie alla fine, no? C'è un recupero anche insomma di una esigenza interiore religiosa, però che si innestava in quest'altra cosa. Ecco, il motto di vita per ciascun frintanista si poteva sintetizzare in queste parole, no? Che sono messe qui alla fine degli statuti: voglio sempre più adornarmi della vera sapienza, crescere ogni giorno come nell'età, anche nella virtù, grazie presso Dio e gli uomini. È tipicamente evangelico, qui si finisce ritrovando il frint, insomma, della riforma evangelica e riforma religiosa.